24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Bianca, Arnaldo Forlani, Vittorio Feltri, S. Craxi, Bianca, Magalli, Greggio, Ferilli Sabrina, Razzi, Bianca, Bianca, Bianca. Schede bianche 538. Se si sceglie un candidato, quel candidato non è messo lì per fare ulteriori passaggi dopo. È il candidato sul quale ci giochiamo la nostra credibilità tutti insieme. Noi abbiamo responsabilmente garantito le riforme. Oggi ci troviamo di fronte a un diktat di Renzi assolutamente inaccettabile. Otteremo scheda bianca per le tre votazioni a maggioranza qualificata e anche per le votazioni a seguire, la quarta, la quinta, la sesta. Oggi Renzi decide di eleggere un candidato presidente appoggiandosi alla sinistra e abbandonando una condivisione larga con le forze di centro. Buona fortuna. Bianca, questa è la parola più usata ieri da Laura Boldrini. Bianca, bianca. Bianca, scheda bianca. Un giorno uno mi chiese: ma chi è Bianca? Ma veramente? Cioè, ma chi è sto Bianca? Bianca. Ragazzi, che diciamolo francamente, dal punto di vista renziano, che capolavoro politico. Cioè, ma vi rendete conto? Ha insistito per mesi a dire che la legge elettorale al Senato doveva assolutamente passare prima di iniziare le votazioni per il Presidente della Repubblica. E ora si capisce perché. Si è capito benissimo perché. Ha incassato la legge elettorale coi voti di Berlusconi, quindi col patto del Nazareno. E poi, incassata la legge elettorale, tanto alla Camera la legge elettorale c'ha i voti, un'ampia maggioranza Renzi, quindi legge elettorale quasi incamerata, dunque il voto, come dire, pistola alla tempia del voto anticipato su tutti, e poi l'ha fregato in una maniera incredibile. Se passerà Mattarella, adesso vedremo, se non ci saranno i franchi tiratori, l'ha uccellato in una maniera: prima mi prendo i tuoi voti, faccio passare la legge elettorale e poi mangi questa minestra, ti becchi il mio candidato, Sergio Mattarella. Ti piace? Non ti piace? Te lo becchi comunque. Ma cioè, voglio dire, un capolavoro politico dal punto di vista renziano e uno smacco totale. Brunetta, l'abbiamo sentito, su Repubblica dice: Renzi è come quello scorpione che si fa trasportare dalla rana e a metà strada, a metà del guado, perché la natura dello scorpione, la punge e muoiono insieme, come lo scorpione. 6:33 minuti, allora sarà Sergio Mattarella il Presidente della Repubblica numero 12 in Italia? Chi lo sa? Intanto saluto Lorenzo Nespoli in redazione, saluto Carmelo Lauricella oggi in regia, il nostro alpino rottamato. E dai, allora apriamo il Parlamento, su. Apriamo il Parlamento che è in seduta continua. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Alle 9:30 oggi, seconda votazione, anche questa non sarà decisiva, poi la terza nel pomeriggio, anche quella non sarà decisiva. E domani, sabato, molto probabilmente sarà Sergio Mattarella, chi lo sa. Lo voglio chiedere subito ad Andrea Sarubbi che svegliamo. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Che segue totalmente blindato lì in Parlamento. Che aria tira? Che aria tira lì? Ah, guarda, è molto difficile da capire perché tra quello che dicono e quello che fanno normalmente c'è sempre uno scarto che è difficile individuare, quindi se chiedi in giro, se dovessi dire una cosa, mi sembrano molto più tranquilli i deputati del Partito Democratico rispetto a 2 anni fa, quindi sì, almeno dal punto di vista esterno sembrano molto più sereni, però a forza di star sereno Letta è uscito dal governo, quindi non si può mai dire, no, in politica. Ma sai, oggi proprio lo stesso Enrico Letta, sentito dal Fatto Quotidiano, proprio la domanda, scusate ma è tutto liscio così, Luca Lotti sul Fatto dice niente va liscio come sembra mai, ma questa è superstizione. Enrico Letta dice ma no, è cambiata la situazione rispetto ai 101 franchi tiratori, ma no, adesso bah, non lo so, vedremo. Un po' è vero perché hanno in mano il pallino e hanno in mano, volendo, anche i numeri, perché su Mattarella poi si prendono gli aiuti di altre truppe, gli aiuti di Sel, che pur di mandare all'aria il patto con Berlusconi voterebbe Mattarella, che tra l'altro insomma è persona autorevole e, come abbiamo detto più volte in questi giorni, con la schiena dritta, probabilmente anche alcuni fuoriusciti di Grillo, che lo dicano o che non lo dicano, insomma, voteranno, forse qualcuno ha già aperto, dice, forse potrebbero votare Mattarella, e io credo anche, se posso dire una cattiveria, che arriveranno dei voti a Mattarella del soccorso centrista anche da parte di Alfano, eccetera. Di Alfano, ora il problema è sempre che lo dicano o che non lo dicano, e non escluso anche da Fitto, naturalmente già ieri la senatrice Bonfrisco, che è vicina a Fitto, ha detto ma Mattarella è un bellissimo nome e così via, quindi tutte persone che per vari motivi, a volte anche opposti tra loro, voteranno, convergeranno, hanno voglia di far saltare il staremo a vedere, di far arrabbiare Berlusconi o vari motivi, intanto anche se ne perde qualcuno, magari ne prende qualcun altro. Ma infatti anche secondo me non ci saranno sorprese, però la politica è variegata, è bella, è imprevedibile, quindi staremo a vedere. Intanto Andrea, voglio salutare insieme a te la direttorissima per sempre, Aurora Lussana, che dalla Ridotta Padana eccola qua. Buongiorno Milan, un caro saluto a Saruppi e un caro saluto ai tanti amici di Radio 24. Radio 24, sì, certo. Non ho i forconi, ma ho 3 Mattarelli. Se qualcuno ne avesse bisogno, 2 li metto a disposizione, 1 me lo tengo. Se organizzate, chiamatemi. Questa fu una dei primissimi messaggi mandati in segreteria. Credo che questa signora non fosse così previdente a pensare ai Mattarelli, come li chiama lei. Aveva già capito tutto 3 anni fa questa signora. 1 Mattarella me lo tengo, no? Bravo il nostro Nazareno, il nostro premier. Chi è il Nazareno? Il premier? No, quello perché sono 2. Quello che sempre è ovviamente Matteo Renzi. Straordinario. Pregiudicato, bullismo istituzionale, ha vinto lui, bravo, l'ha messo nel sacco il Berlusca, è 2 anni che glielo diciamo, va bene. Voi della Lega un po', cosa fai in questo momento? Più gongoli del tipo avevamo ragione o più dici eccolo là, tu che ami Renzi politicamente parlando, sono proprio, guarda, a parte che sono baruffe tra innamorati, perché vabbè adesso lo sai che è così, c'è questa tecnica del profumiere che usa Renzi, di solito sono le donne a fare profumiere, no, lo sai, se la vuoi spiegare a tutti gli ascoltatori, no, va bene, gli ha fatto usmare questa dose minima di frode fiscale, no? Che verrà approvata il 20 febbraio, quindi insomma gliel'ha fatta usmare sta cosa, si è preso i voti e adesso sarà buono, ho capito, ma tu sei più contenta perché l'avevamo detto o più rosichi? Noi siamo un'opposizione nel paese dei democristiani, cosa vuoi, noi facciamo la nostra parte, ha vinto questa leadership democristiana che è Renzi, e infatti metterà al Quirinale un democristiano siciliano che ha fatto il ministro con De Mita, Andreotti, D'Alema, quello che ha bombardato la Serbia, ha fatto di recente una cosa meravigliosa. Cosa ha fatto? Ha bocciato il referendum sulla Fornero, quindi non ci potremo esprimere sulla Fornero. È vero, Mattarella per i leghisti è anche uno di quelli che ha bocciato il referendum. Ma ragazzi, ma quel referendum non si poteva fare, era sulle leggi di bilancio. Va bene, va dai, certo, su. Non si può mai far niente in quel paese, invece andare a bombardare. Ma c'è una legge che lo impedisce, non è anche che la Costituzione dice che non dobbiamo andare a bombardare nessuno. Mattarella era ministro di che cosa? Della Mattarella bombardatore, va bene. Noi facciamo la nostra parte, l'opposizione. E infatti la Lega ieri ha votato un tuo collega, un mio collega, un nostro collega Vittorio Feltri, che è bergamasco, sì, certo. E quindi è un bergamasco al Quirinale, metterebbe un po' di robe. Bergamasco Sarubbi va bene comunque. Faccio notare, Andrea, che secondo alcuni profili del Corriere della Sera, Mattarella, che è di Palermo, ma avrebbe simpatie per l'Inter. E questa ancora? Cosa? Ah, ma questa questa è una roba organizzata, perché i posti chiave in Italia se li stanno prendendo gli interisti, e questa è una cosa alla quale bisogna rispondere. Ma no, aspetta, perché Matteo Renzi è della Fiorentina, ovviamente. Ma tutta l'informazione adesso è in mano agli interisti, capito? Ah, sì? Addirittura il Foglio è finito in mano agli interisti. Quindi adesso questa è la cosa più seria che abbiamo detto dall'inizio della mattinata, e qui bisogna dare una risposta. No, per quanto diceva Aurora, invece secondo me insomma si ricorda quello che si vuole sempre delle persone, loro fanno legittimamente la loro battaglia politica, ma a me quello che un po' spaventa invece è un po' la campagna in questi giorni dei vari giornali che sono contro Mattarella, perché un discorso è essere contro qualcuno politicamente, e io sono d'accordissimo, cioè ci sono mille motivi per essere contro la scelta di Mattarella, altro discorso è cercare gli scheletri nell'armadio delle persone anche quando queste persone armate in casa non per esempio hanno. Quindi, il Fatto Quotidiano oggi fa una pagina sui il chiacchierato padre di Mattarella e anche il fratello, ma anche sul Libero, il fratello che forse chiese dei soldi al cassiere della Magliana. Però Andrea, cosa devono fare? Cioè non possono fare. Sì, però vedi, cioè, se poi la lotta politica, no, diventa questa roba qua, è vero che si dice sempre che la politica è sangue e merda, però insomma a me questo è quello che mi dà più fastidio in generale, ecco, perché. Ma se conosciamo i cessi tutto della casa di Berlusconi, ragazzi, ma dai, è così. Infatti se Sarubbi diventa capo dello Stato sarà uguale, cioè se Sarubbi diventa capo dello Stato, quando quella volta a Juve Milan disse delle cose bruttissime nei confronti del Milan, verrà fuori, non è che poi, cioè, ti faremo una radiografia a tutti gli insulti al Milan e i milanisti lo dovranno sapere. non è che no, però scusa Andrea, cioè è giusto andare anche, voglio dire, secondo me è giusto, è comprensibile ma non giusto. Cioè quello che ha fatto una volta il prozio di Mattarella, che non ha pagato il conto in un ristorante scappando come Pieraccioni con i laureati, non secondo me diventa poi un criterio di scelta politica, non lo so. Invece Aurora dice, Aurora, tu faresti la radiografia da... No, vabbè, se deve essere una roba così morbosa su quelle robe lì, sul parente, allora dice di quei parenti, io dico di quelle robe al telefono, invece se ci fossero davvero dei rapporti, vabbè, fanno i giornalisti, quelli del Fatto, quelli di Libero, poi non deve diventare ovviamente una roba Sì. Però una cosa l'ho capita, Andrea, ma Renzi, là veramente, cioè il titolo del Secolo XIX è Berlusconi, Matteo mi ha pugnalato, cioè ma è davvero questa la questione politica? Cioè Renzi si è preso il patto del Nazareno per quello che gli serviva, la legge elettorale, poi gli ha detto, cioè questo è lo spirito di Forza Italia, l'idea di scorpione, pugnalatore, traditore. Qui è saltato addirittura il vecchio detto del doppio forno, perché Renzi c'era triplo il forno. Nel senso che esatto, il governo, il Nazareno. Eccezionale su questo, se le cose vanno così, cioè penso che neanche McDonald's va così veloce con i tipi di frittura, no? Che sapete che io ho lavorato anche da McDonald's nella mia esperienza londinese, studiavo all'università a Londra per mantenere sei un mondialista! Attenzione, ha lavorato a McDonald's! Lavoravo da McDonald's. Ma no, ma sei Aurora, dai, cosa pensi di Sarubbi a questo punto? Cioè, pensavi fino a 10 secondi fa. Sai che io sono per il cibo local, quindi ho capito, ma era Londra, invece di farssi mandare i soldi da papà lavorava a McDonald's, scusate, vabbè, io ho lavorato in un'enoteca dalle nostre parti, non sono andata fino a Londra e ho fatto lo stesso del liceo. Sì, ma adesso mica è una colpa lavorare da McDonald's per non farsi Però non me la sarei mai aspettato da Sarubbi, hai capito? No, ma nel frattempo sono anche vegetariano, quindi Se a laurearci, ma detto questo, stai peggiorando clamorosamente la tua situazione, Sarubi, sappilo. Cioè. C'erano diversi punti per portare il tempo, no? Secondo che uno volesse le patatine o l'hamburger o il pesce, eccetera, eccetera. Ecco, Renzi è un maestro lì dietro in cucina, è fenomenale. Detto questo, però, io tutte queste valutazioni le farei sabato pomeriggio, perché io non sono proprio certissimo che questa roba vada così come è stata detta. No, ma infatti Luca Lotti dice sul Fatto Quotidiano: no, niente va mai liscia come sembra. Vabbè, sentite Brunetta, ragazzi, cioè, è lì che sai come quando Benigni diceva, ti ricordi la scena di Benigni, Aurora, che diceva che vorrebbe dire gli insulti, ma si trattiene, no? E usa delle frasi politicamente più o meno, però scorpione, vabbè, Brunetta. La decisione unilaterale di Renzi, Presidente del Consiglio e Segretario del Partito Democratico, di candidare Mattarella senza il nostro assenso, senza la nostra condivisione, evidentemente è uno strappo difficilmente sanabile. Difficilmente sanabile, Aurora. No, ripeto, baruffe tra innamorati. Baruffe tra innamorati. Ne rientra tutto. Sai che Renzi dice: ma sì, adesso Berlusconi gli lasceremo qualche giorno per sbollire la rabbia e poi via con le riforme insieme, eh? Ho capito, ma è così. Per fortuna, guarda, che ci siamo noi a fare un po' di sano antirenzismo, dose minima di antirenzismo. Un antidoto al renzismo grazie alla Lega. Dai, grazie alla Lega. Sennò anche Sarubi si sveglia tutti i giorni e dice: meno male che c'è la Lega. Questo è il primo pensiero. Sarubi, vado anche oggi ad assistere alla dose di antirenzismo grazie alla Lega. Se no, in un paese democristiano, cioè, dai, almeno una tutela per la Lega qua ci vuole, perché sennò qui c'è una deriva democristiana. Vabbè, ma c'è uno che mi chiede: ma la Lussana non doveva sposarsi? Ma certo che si sposa. Ma sì, a giugno. Sarubi è invitato? Perché devi invitarmi, scusa, ma non lo so, sono le cane, quelle che le vogliono bene. Vabbè, ma perché non le vuoi bene? Le farò gli auguri volentieri, non la conosco personalmente, le farò gli auguri volentieri. Va bene, comunque si sposa, sì, questa è la notizia. Oh, ci chiedono di Vincino, so che adesso Sarubi si arrabbia, no, noi abbiamo detto di votare Vincino, ma non nessun grande elettore qua ci ascolta, perché dormono a quest'ora, che devono fare? E quindi Vincino ha preso 0 voti, ma lo teniamo coperto, non vogliamo bruciarlo, si dice così in questi casi, Sarubi. Ma guarda, io no, veramente, a parte gli scherzi, non mi appassiono molto a Alzabelli Fioretti candidato, a Magalli, eccetera eccetera. Ma a Vincino sì. Ma Vincino è un'ottima persona, però non mi appassiona a queste campagne, perché vabbè, se io fossi in Parlamento non lo voterei. Io sono ancora uno di quelli che, nonostante ci abbia passato 5 anni lì dentro, ancora rispetta molto l'istituzione e non ci scherza troppo. Ma anche, nel senso che ci Vincino fuori, ma non dentro. Ma anche Vincino rispetta. Se Vincino ti vuole candidare, credo che debba passare per Renzi e non per me. Ah, ecco, vabbè. 24 mattino. Mira, ma va, questo cazzo di presidente, che cazzo ce ne frega noi? Ma che risolvono i problemi? Ma finitela un po'. Io sono una cittadina italiana, però dico che se hanno il coraggio di eleggere Amato come Presidente della Repubblica, io giuro che mi metto a bruciare la bandiera italiana sul balcone. Matteo Salvini, è possibile che lui sta tutte le televisioni mattina, pomeriggio e sera? C'era ieri sera, c'era l'altro ieri, sta sempre mattina. Ma quando va a Bruxelles? Quando lavora solo per via telematica? Solo così può lavorare. Questo dillo alla bella Aurora Lussana, che va a dirigere una rivista di culinaria insieme a Benedetta Parodi. È sicuro che non dimenticherà neanche gli ingredienti, perché mi sa che dimenticherà anche gli ingredienti. Scusami il mio italiano, sono un paesano di Torino di Pietro, quindi io non ci accucchio un cazzo con l'italiano. Vabbè, Milan, che noi abbiamo 2 neuroni, comunque sono sempre il doppio di quelli che ha lei, Ma che cosa devono fare per il Movimento 5 Stelle ai dissidenti? Portargli un mazzo di fiori? Dargli una pacchetta sulle spalle e dire: ehi, ma sì, dai, stiamo scherzando. Ma lei vive sulla Terra o vive sulla Luna? Aurora, vuoi andare a fare sentito il Montenerese di Bisaccia lì? Come si chiama? Montenerese di Bisaccia. Dice di fare. Ti va con Benedetta Parodi? Che è la sorella Della moglie del sindaco Marco di Bergamo. Ah, certo, io dico la sorella di Cristina Parodi, e tu che c'hai Bergamo proprio nella testa, dice la sorella del sindaco. Sì, sarebbe la cognata di Gori. La cognata di Gori. Tu riferisci tutto a Bergamo. Ma come si fa? Abbiamo pure a Bergamo il sindaco renziano, te l'ho detto. Questa deriva qua democristiana a me preoccupa. Poi ci sono i grillini lì che ormai... Sgrillettate, conciati come sono, dove che vadano, restiamo sgrillettate. Fare un po' di sana opposizione antirenzista, che fatica, ragazzi. Sarubi, meno male che c'è la Lega. Meno male che ci sono opposizioni sempre, questo va detto, perché tengono sveglio un po' il paese, perché sennò uno si addormenta a stare appresso a un racconto solo da una parte, no? Che tipo anche ribambire, ma questo è indubbiamente, cioè al di là del fatto che ci sia un Berlusconi, un Renzi chiunque, l'opposizione meno male che c'è sempre e comunque poi l'opposizione. Ma ancora per poco, perché fra la nuova costituzione, l'Italicum, cosa vuoi? Questi qui col 20, quanto hanno vinto? 26.000 voti di scarto, si sono presi tutto. Ma ha detto Calderoli l'altro giorno al Senato che tanto al ballottaggio andrà sicuramente Salvini, con l'Italicum e vista la diaghettina potrebbe anche vincere, quindi però non si lamenta troppo, perché ha detto Calderoli che i prossimi sarete voi. Però questo Salvini effettivamente, ma quando è che va a Strasburgo a lavorare? Cioè, no, ma guarda che c'ha una buona presenza, una ricerca, ragazzi. Allora all'ondono dell'ubiquità l'abbiamo scoperto, Sarubi, no. Tu che sei sempre attenta a queste cose vaticane, diciamo, al dono dell'ubiquità. È più o meno posizionato nella prima parte della sull'esto a fare le foto per oggi. Sì, un po', le foto per oggi. Diciamo che quelle foto lì sono anche servite, no? Per fare delle conquiste. Per fare delle conquiste anche. Anche per fare delle conquiste. Ma sei un po' gelosa, Aurora? No, tu ti sposi, che ti frega. No. Di Salvini e Raisoardi, intendo. No, sarei gelosa del mio moroso. No, sono... Cioè il tuo moroso con Salvini? No. No, con Raisoardi? No, non ho più capito, scusa. Sono gelosa solo del mio moroso e basta. Certo. È un po' del Milan, appena, quando... Il Milan, nel senso io? Mi manda la ministra Boschi. Porca miseria, non ho la voce della Boschi. Ma vorrei chiedere a Sarubi, che è sempre... Duarte di una bellezza inarrivabile. Che è sempre lì in Parlamento. Andrea, io sono innamorato della voce di Maria Elena Boschi. Ce l'abbiamo una voce? Queste C che suonano proprio da Toscana, ma è così proprio anche dal vivo la voce? È proprio... Sì. Cioè, è fantastica, così è. Sì. Poi, Madonna. Ha un bel accento, quello del Valdarno è molto bello come vedi, accento. Vedi, Aurora, un po' di gelosia si tocca, che devi fare? Vabbè, è così. Vabbè, se ce l'abbiamo, eccola la Boschi. Sicuramente soddisfazione, perché fino a qualche mese fa nessuno l'avrebbe creduto possibile, invece dopo 9 anni il Senato approva una nuova legge elettorale. Dai, Aurora. Una legge elettorale che consente ai cittadini di scegliere i deputati, soprattutto di avere una certezza del vincitore che poi può governare per 5 anni. Quindi una buona legge capo della popolare sta voce qua. Vabbè, le polemiche sulle popolare. È così. Butta tutto in politica, Aurora Lussana. Ma allora io vi vorrei chiedere questo. Intanto c'è Mentana, è successo tra le votazioni, visto che quelle che non piacciono ad Andrea, tutte le votazioni un po' strane. A un certo punto per il nome Mauro Morelli. Sentite. Secondo voto per Mauro Morelli. Sì. Che cazzo è Luciana Castellina. Sarubi, effettivamente Mentana non era preparatissimo su Mauro Morelli. Di avere un dubbio sull'identità di Mauro. Una cosa molto divertente durante lo scrutinio è avere Google sotto mano, perché tu senti questi nomi. Google, certo, tu cerca. E ti vai a cercare chi sono. Allora, ieri, per esempio, ho scoperto che hanno votato un giornalista locale catanese. Zittelli. Che per scherzo era stato candidato una volta già come sindaco ed era stato candidato già nel 2010. Poi un autotrasportatore di Frosinone che ha fatto fortuna del Gaba, se non sbaglio. L'autoposteggiatore. Autotrasportatore. Era un camionista, adesso ha una ditta di camion, credo arriva del Garda. E poi tali altri. Credo che qualcuno abbia candidato il suo fisioterapista o cose varie. Sì. Insomma, comunque Mauro Morelli, intervistato da Repubblica, è un consigliere a Napoli, dice non ho l'età, eccetera. Però ripeto, a me non sono cose che appassionano, te l'ho detto anche ieri sera quando ci siamo confrontati su Vincino, insomma, al quale auguro i migliori successi, ma non al Quirinale. Ma perché Vincino è contentissimo di aver preso 0 voti, dice il lavoro più palloso del mondo, per carità, non fatemi questo scherzo di mandarmi a Quirinale. Avrebbero un vantaggio che sarebbero quello delle vignette di fine anno. Cioè, esatto, io l'ho detto invece del discorso vignette di fine anno. Comunque rinnovo l'appello, qualsiasi grande lettore dei 1009, quanti sono che vorranno, votate Vincino anche oggi pomeriggio, poi da domani si fa sul serio, e quindi Vincino. Ciao a tutti, Aurora, la ricetta la prossima volta, comunque auguri. Nessuna ricetta. Ieri sera sono andata alla Giubiana di Cantù, che mi ha fatto il falò. Ah, la Giubiana, festa popolare. È una meraviglia questa festa popolare, allora bruciato alla grande, quindi sarà un grande 2015, brucia l'inverno, il gelo e prepariamo i campi all'arrivo della primavera. Fantastico, Salvini al governo, ormai la Giubiana, la Giubiana di Cantù, la Giubiana di Cantù ha sentenziato. Grazie. Io non ho i forconi, ma ho 3 matterelli. Se qualcuno ne avesse bisogno, 2 li metto a disposizione. 1 me lo tengo. Se organizzate, chiamatemi. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:18 minuti, cari ascoltatori, e certo tutti focalizzati all'elezione del Presidente della Repubblica, ma vogliamo ricordare che si chiude oggi la 91esima settimana decisiva per la riforma elettorale e per l'abolizione delle province. Decisiva? No. Ma la 92esima, come sempre, è alle porte, cari italiani. Allora, oggi parleremo ovviamente un po' di Quirinale e parleremo di quello che sta succedendo per le elezioni al Presidente della Repubblica. Parleremo anche dei dissesti della giustizia italiana. Avremo il Presidente del Tribunale di Roma che ieri ha raccontato al Fatto Quotidiano gli sfasci per mancanza di personale, soprattutto dei tribunali di Roma, ma come emblema degli sfasci dei tribunali italiani. Sarà nostro ospite alle 8:40, ora andiamo a leggere i giornali. In questo venerdì 30 gennaio, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore è tregua sui mercati greci, borsa più 3%, bond stabili. C'è però anche in prima pagina Renzi lancia Mattarella verso il Colle e unisce il PD. E ovviamente la corsa al Quirinale che oggi prende sui giornali generalisti dalle 11 alle 13 pagine è l'apertura di tutti gli altri. Corriere della Sera, Mattarella va, il patto del Nazareno vacilla. Repubblica, il PD unito su Mattarella al Quirinale, Berlusconi a Renzi, così rompi il patto. Per il Fatto Quotidiano è la mattarellata di Renzi in testa a Berlusconi. Per Libero è alto tradimento, Renzi rompe il patto del Nazareno. La Stampa, Mattarella più vicino al Quirinale. Il Giornale, Renzi ha tradito. È emblematico e efficace il titolo di Avvenire. Il PD con Mattarella, Forza Italia alza scheda bianca. Sembra molto un alza bandiera bianca, ma il gioco di concetti è interessante. Il Messaggero, c'è Mattarella, stop al patto. E il Secolo XIX, Mattarella, l'ira di Berlusconi. Per il Manifesto c'è proprio la foto di Berlusconi, molto sfocata, per carità, e il titolo evocato, peraltro, nei confronti del leader di Forza Italia. Stai sereno. E insomma, tutti la dipingono così e lo vedremo tra poco, la corsa al Quirinale di Mattarella. Renzi che, secondo Forza Italia, ha tradito gli accordi e ora impone il suo candidato. Ma lo vedremo tra poco. A proposito di province, visto che ne abbiamo parlato, oggi il Messaggero racconta, pagina 9, con Andrea Bassi, il piano per i 20.000 esuberi, cioè i dipendenti delle province, Eccolo qui, arriva la firma della circolare Madia sul ricollocamento dei lavoratori. Per i precari slitta di 2 anni la stabilizzazione. Per il governo è più di un passaggio delicato, racconta Andrea Bassi sul Messaggero. È una prova, uno spartiacque, riuscire a gestire il più grande processo di mobilità di dipendenti pubblici mai tentato in Italia. 20.000 lavoratori delle province che da qui al 2016 dovranno trovare una nuova collocazione. Il ministro Madia ieri ha messo a punto il primo importante passaggio di questo percorso, una circolare che detta le linee guida per determinare il destino di questi 20.000 statali. In realtà, alla fine, il processo di mobilità potrebbe riguardare una platea meno ampia, circa 15.000. Dai 20.000 in partenza, infatti, vanno sottratti i dipendenti che lavorano nei centri per l'impiego, personale che sarà ricollocato nella nuova agenzia prevista dal Jobs Act. Vanno anche sottratti tutti coloro che entro il 2016 avranno, con le regole vigenti, i requisiti per andare in pensione, e non sono pochi. Per il resto, per assorbire il personale delle province entreranno in campo in prima battuta le regioni. Dunque molte andranno alle regioni. La Presidenza del Consiglio avvierà un monitoraggio sui fabbisogni del personale e le risorse disponibili in tutta l'articolazione delle macchine statali. Per la verità avevo sentito, e vedremo anche col Presidente del Tribunale di Roma, che si parlava anche di mobilità nei tribunali, appunto, dove manca il personale. E allora perché non si può formare parte dei dipendenti delle province, formarli ovviamente prima di andare a lavorare in tribunale, magari non sono aree di loro competenza, e poi li si mette lì laddove c'è mancanza e carenza di personale, come denunciano da anni inascoltati i presidenti dei tribunali? Potrebbe essere un'idea. Fatela, forza, fatela. Le cose si possono fare se si vuole. Voglio invece saltare letteralmente a un altro argomento che però riguarda molti italiani, ed è il tema delle adozioni internazionali, perché La Stampa dedica con Rafael Zanotti una pagina a questo tema, raccontando i ricorsi al TAR, le denunce all'UNICEF, insomma la battaglia in corso sulle adozioni dall'estero. Sotto accusa è la Commissione Adozioni Internazionali, che negli ultimi 6 mesi non si è mai riunita, questa l'accusa. E allora cosa succede? Che molti paesi, da cui gli italiani adottano bimbi, hanno interrotto le relazioni con noi. Racconta Rafael Zanotti: da una parte manca il timbro, dall'altra la certificazione. Insomma, le adozioni internazionali lentamente muoiono. E non per mancanza di famiglie che vogliono adottare, muoiono di burocrazia, quella che sembra essersi inchiodata dalle parti della Commissione Adozioni Internazionali. La Bielorussia, per esempio, il 13 settembre scadeva il documento di garanzia che annualmente la Commissione italiana deve inviarle sulle condizioni di vita e educazione dei bambini bielorussi adottati in Italia. La Bielorussia ha aspettato, ha sollecitato, ha risollecitato, poi il 13 gennaio ha chiuso le adozioni e ha inviato una lettera alle associazioni italiane dicendo: vi chiediamo di informare i vostri associati, cioè le vostre famiglie, e di porre loro le nostre scuse per le difficoltà venutesi a creare, non per nostra responsabilità. Nel frattempo la Commissione italiana ha risposto dopo qualche giorno: grande collaborazione e lavorio, ma le associazioni sanno che a tutt'oggi nulla si è ancora mosso. La Bielorussia è un caso, ma ce ne sono 1000 altri. In Cambogia vige un accordo bilaterale. La Commissione Adozioni italiana aveva promesso di avere al governo cambogiano l'elenco delle associazioni italiane autorizzate a operare. Doveva arrivare il 17 dicembre e in Cambogia stanno ancora aspettando. E per ora è tutto fermo. Stessa cosa per Haiti, Nepal, Guatemala. L'ultima attività risale al 2013, poi il silenzio. E così da oltre un anno. E i paesi stranieri, giustamente, di fronte a questa incertezza, rompono uno dopo l'altro le relazioni sulle adozioni internazionali con le associazioni preposte a questo in Italia. Questa è la denuncia che trovate sulla Stampa a pagina 17. Che sta facendo la Commissione Adozioni Internazionali in Italia? Novità nel mondo della scuola, le annuncia il ministro Giannini oggi in un'intervista al Corriere della Sera, intervistata da Gianna Fregonara, pagina 23 del Corriere. La notizia più importante è questa: alle elementari si studierà una materia in inglese per tutti. uno dei miei due figli lo sta già facendo, due materie in inglese, è una sperimentazione e la consiglio a tutti. Sono in genere scienze, infatti proprio la materia scienze è quella che segnala il ministro Stefania Giannini. Nella quarta e nelle quinte, oltre alla musica e l'educazione fisica con insegnanti specialisti, da settembre ci sarà la possibilità di avere veri e propri professori di inglese in quarta e quinta elementare che insegneranno insieme con la maestra una materia in inglese, per esempio scienze. Ripeto, mio figlio già lo fa dalla prima elementare, due materie, una in scienze appunto, totalmente insegnate in inglese dalla prima elementare, e secondo me è una cosa buona. Comunque, alle elementari si studierà una materia in inglese, questo l'annuncio del ministro Giannini, che poi si guarda ai 140.000 assunti e alla domanda «sono confermati?» saranno tutti assunti il 1 settembre, dovranno restare almeno 3 anni nel posto che scelgono. Questo è importante, non che vengano assunti e poi fanno subito richiesta di trasferimento, Copriranno le supplenze, 50.000 circa copriranno le cattedre disponibili, gli altri 90.000 formeranno l'organico funzionale, in media 2 insegnanti in più per ogni istituto. Insomma, copriranno le supplenze, si occuperanno di alcune nuove competenze come la logica, l'educazione alla salute e all'ambiente, l'insegnamento della lingua inglese, la lingua italiana per stranieri. È prevista la formazione di questi professori e con che fondi, chiede il Corriere. Non subito, risponde il ministro Giannini, probabilmente durante l'anno. I fondi li troveremo, useremo i risparmi dell'abolizione delle supplenze. Ieri intanto ho stanziato altri 50 milioni per le spese correnti delle scuole. Poi parla di altro, ovviamente, in questa intervista al Corriere della Sera, il ministro Giannini. Siamo al momento dell'articolo che mi fa pensare di questa giornata. L'articolo che trovate su Libero, questa storia la trovate un po' ovunque. Carlo Panella però racconta su Libero quello che è successo in Iraq. Tenete bene le mani sul volante, sono state abbattute le mura di Ninive, il califfato peggio dei talebani. Le mura dell'antica Ninive, 3.000 anni di storia, nei pressi della grande moschea della città, sono state abbattute a colpi di bulldozer dai miliziani del califfato. Le ragioni di questo scempio sono le stesse di quelle dei talebani che nel marzo del 2001 fecero abbattere le statue del Buddha di Bamiyan in Afghanistan. In un certo senso sono ancora peggiori, perché quantomeno quei Buddha rientravano in pieno nelle dimensioni di idoli, di effigi di una divinità in pietra, oggetto di culto contro natura per i talebani. Ma invece le mura di Ninive non avevano effigi, erano semplicemente parte delle imponenti mura di cinta della città Sira che si estendevano per 12 chilometri, mai sono state oggetto di alcun tipo di culto. Dunque perché distruggerle? Perché rappresentano agli occhi degli jihadisti quel che resta dello splendore della capitale del regno degli Assiri e della loro civiltà pagana che inquina con la sua presenza la grande moschea. Quindi sono un simbolo del regno dell'ignoranza idolatrica che precedette la profezia di Maometto e che da lui fu spazzata via. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Questa è una delle migliori, anche questa, è circonciso, sì, certo. Va bene. Allora, cari ascoltatori, sarà Sergio Mattarella il 12° Presidente della Repubblica Italiana? Pare di sì. Questo dovrebbe succedere domani. Oggi ci saranno altre 2 votazioni, ma non si raggiungerà il quorum per nessuno. Domani, che invece bastano 505 voti su 1009, cioè la maggioranza assoluta, pare che i numeri ci possano essere a meno di Franchi Tiratore. Questo lo scopriremo domani. Sta di fatto che tutti i giornali oggi rappresentano la vicenda così: Renzi, dopo aver incassato il sì, i voti del patto del Nazareno per far passare la legge elettorale alla Camera e quindi l'appoggio dei berlusconiani, ora ha imposto il suo candidato. traditore, scorpione, mascalzone, questi alcuni degli epiteti che trovate da parte di alcuni esponenti di Forza Italia. Berlusconi arrabbiatissimo nei confronti di Renzi, il patto del Nazareno è finito, basta. Questo è il clima per l'elezione del Presidente della Repubblica. Francesco Bei, a pagina 2 di Repubblica, racconta l'ultima telefonata ieri di Renzi a Berlusconi, molto tesa, alle 12.30. Vi abbiamo concesso il ballottaggio sulla legge elettorale, anche il premio di lista. Ora ci aspettiamo un uguale ascolto da parte vostra sul Quirinale. Così Berlusconi a Renzi. Ma Renzi dice: ci avevi promesso amato. Alla domanda di ci avevi promesso amato di Berlusconi e non hai rispettato il patto, risponde Renzi: non è vero, tu pensavi di impormi il vostro candidato, ma io non ti ho mai promesso niente. E allora Berlusconi: ma se voi andate avanti su Mattarella, per quanto mi riguarda gli accordi sono definitivamente messi in discussione. E Renzi: va bene, fai pure, per me non è un problema, io vado avanti anche senza di te. Questo il senso, secondo Repubblica, dell'ultima telefonata Renzi-Berlusconi, e da qui Renzi che dice: andiamo avanti con Mattarella e andiamo a ricompattare il PD, perché anche Bersani ha detto Mattarella va bene, la Bindi che ha pianto di gioia per la scelta di Mattarella a dire: beh, ma allora si sta ricomponendo un rapporto con il Partito Democratico, con Renzi, e invece i berlusconiani arrabbiatissimi. Pare, secondo il Fatto Quotidiano, che Verdini, uno dei più grandi fautori del patto del Nazareno, come racconta Fabrizio D'Esposito, ieri si sia presentato da Berlusconi stravolto: Silvio, scusami, è tutta colpa mia, sono stato io a dirti che potevi fidarti di Renzi, non pensavo che potesse comportarsi da mascalzone, il colpevole sono io, fate pure di me il vostro capro espiatorio. E Berlusconi è infuriato. Berlusconi all'inizio voleva mandare tutto all'aria il patto del Nazareno. Guardate il titolo del Secolo XIX di pagina 3: la rabbia di Silvio. Matteo, mi hai pugnalato. Però poi sono arrivate le telefonate. Marina Berlusconi, la figlia, a dire: papà, pensa alle aziende e quindi non rompere. Invece con Falonieri, secondo il Secolo XIX, che gli consiglia: no, invece è questo il momento in cui devi rompere con il premier, sbarriamo la strada a Matteo Renzi. Lo fa, racconta il Secolo XIX, col Falonieri, rispettando l'umore nero dell'amico di sempre, il Silvio tradito. Rompiamo con Renzi, torniamo a fare un'opposizione dura. Mentre invece i figli di Berlusconi gli dicono: le aziende di famiglia vanno protette, quindi è bene non rompere con Renzi. In tutto questo lo stesso Presidente del Consiglio ha un atteggiamento molto zen, racconta il Corriere della Sera. Si sente potentissimo, si sente a capo di tre maggioranze in questo momento: la maggioranza di governo, ovviamente, la maggioranza di partito nel PD e ora anche una sorta di maggioranza trasversale, aver ricomposto anche il centro-sinistra contro tutti gli altri tipi di opposizione, anche il patto del Nazareno. Il premier a capo di tre maggioranze, Renzi, dice: Silvio, lasciamogli qualche giorno per smaltire la rabbia e dopo si ripartirà con le riforme. Insomma, un Renzi che si sente potentissimo in questo momento. Ovviamente un Renzi che ora dovrà gestire i nuovi rapporti con Sel e anche quelli lacerati con Berlusconi, ma anche con Alfano. Alfano che però ha detto: a noi non piace Mattarella, ma il governo non è in discussione. Insomma, per le poltrone non è mai in discussione nulla. Sentite invece Brunetta, uno che del patto del Nazareno ha sempre detto peste e corna, poi è stato un po' richiamato all'ordine, ma ora racconta a Repubblica, intervistato da Alberto D'Argenio, a pagina 11: la candidatura di Mattarella è un alto là al patto del Nazareno. Ah, vuol dire che il patto si è rotto? Se volevo dire rotto, dicevo rotto. Ho detto alto là. D'ora in poi sarà tutto più difficile. Renzi non può pensare di avere e gestire tre maggioranze. Quali tre maggioranze? Una di governo, fatta con molti parlamentari, carne della nostra carne. Una per le riforme, il patto del Nazareno, e una terza con tutta la sinistra unita. Insomma, Renzi è affetto, oltre che da bulimia di potere, anche dalla sindrome dello scorpione che uccide la rana, che lo fa traghettare morendo insieme. Insomma, Brunetta, lei vede avvicinarsi le elezioni? Le maggioranze a geometrie variabili non hanno mai portato bene nella storia della Repubblica. Vabbè, tradimento del patto, che farà Berlusconi? Romperà sulle riforme? Ci vorrà, secondo Libero, a questo punto un altro governo, cioè fuori Alfano che non voterà Mattarella e dentro Sel, dentro un'altra maggioranza, insomma, oppure si andrà a elezioni, oppure non verrà eletto Mattarella perché ci saranno i franchi tiratori. Gli scenari da qui a 24 ore si comporranno in maniera un po' più chiara. Anche Umberto Bossi, primo leader della Lega, pagina 5 del Messaggero, dice: Silvio ha sbagliato tutto fin dall'inizio, doveva battere il pugno con Renzi quando era il momento di farlo, quando hanno cominciato a parlare dei candidati al Quirinale non doveva farsi fregare dalla questione del metodo, non conta niente il metodo, contano i nomi, dice Umberto Bossi, doveva parlare chiaro e dire: tu Matteo mi hai fatto votare delle porcherie come la legge elettorale, adesso voti tu il candidato che dico io, altrimenti te ne vai a quel paese. Questa era la linea bossiana, che però è stata non è stata quella tenuta da Berlusconi, secondo Bossi. In tutto questo c'è Mattarella lì alle porte, giudice della Corte Costituzionale. Ieri Berlusconi l'ha anche chiamato e pare, secondo il Messaggero, che Mattarella gli abbia detto: la ringrazio presidente per la scelta delle schede bianche, è una scelta di rispetto, è un atto di rispetto. Io sono qui, ma è un grande fardello. Questo avrebbe detto Sergio Mattarella ai pochi che riescono a rompere quel muro dell'impenetrabile e riuscire a parlargli. E poi ci sono i giornali come Libero e Il Fatto Quotidiano che vanno a scavare un po' nella storia, nella vita di Mattarella. Per esempio Marco Lillo sul Fatto Quotidiano dedica un'intera pagina, a pagina 7, al fratello di Mattarella, Antonino, il fratello Antonino e quegli affari col RAS della Magliana. L'altro Mattarella, Antonino, avvocato, forse sarebbe meglio dire ex avvocato, perché stando alcune pubblicazioni di una decina di anni fa sarebbe stato cancellato dall'ordine professionale per i suoi traffici, scrive Il Fatto Quotidiano, prese dei soldi in prestito da Enrico Nicoletti, considerato dai magistrati il cassiere della banda della Magliana, e si racconta insomma di tutti affari strani. Il quotidiano Libero parla anche del padre, e anche Il Fatto Quotidiano, del padre invece di Mattarella, fondatore, uno dei fondatori della Democrazia Cristiana, ex ministro e considerato chiacchierato in alcune dichiarazioni, chiacchierato perché secondo alcuni vicino, associato a Cosa Nostra, vicino a Cosa Nostra, insomma i giornali tirano fuori anche alcuni scheletri nell'armadio di quello che potrebbe essere il futuro presidente. Libero invece la punta tutta sullo stipendio, eccolo qui a pagina 6, il triplice incasso di Mattarella, prende pensione, vitalizio da ex parlamentare e emolumento della Corte Costituzionale. Vabbè, la chiudo così con Stefano Bartezzaghi, l'anagramma. Sapete che fa spesso gli anagrammi. Stefano Bartezzaghi su Repubblica. Sergio Mattarella, il segreto, la trama. Questo è l'anagramma di Sergio Mattarella per Bartezzaghi. Vabbè, che succederà lo scopriremo solo vivendo, lo scopriremo tra 24 ore presumibilmente. Intanto saluto Mauro Meazza. Mauro, buongiorno. Buongiorno, Enrico. Sei Enrico? No, non sono Enrico. Perché ho visto sul Sole 24 Ore di oggi che ci sarà un programma con Enrico Ruggeri, allora volevo salutarlo. Da lunedì, no? Mi pare. Come si dice? Sì, esatto, da lunedì alle 15:30, il Falco e il Gabbiano. Salutiamo con grande affetto l'arrivo di questo questo, come ho scritto su Twitter, grande acquisto di Radio 24 al calciomercato di gennaio. Ma vuoi proprio Ruggeri parlare di calcio? Cioè, sei sicuro che vogliamo parlare di calcio? Poi Enrico Ruggeri è interista come te, dovresti essere contento. E infatti questo è un motivo in più per farmelo amare. Ho letto che anche Mattarella di Palermo, quindi tifoso del Palermo, sarebbe simpatizzante dell'Inter, qualcuno dice. Basta interisti al potere. Abbiamo, se non è colpa nostra se abbiamo un seguito, insomma, se la mia squadra ha un seguito, questo mi fa molto piacere. Senti, volevo dirti, Telefisco, molto bene, grazie, ma se vuoi saperne di più... fai pure. Ma perché mi stavi chiedendo di Telefisco, sì, esatto, no? Indovinato esatto, che tu mi stavi chiedendo di Telefisco. Com'è andata Telefisco? Anche Telefisco? Caro Mauro, com'è andata Telefisco? Molto bene, grazie, ti ringrazio la domanda, ma se vuoi sapere che cosa ci hanno detto anche a Telefisco, oggi ti diamo 7 pagine, dicono 7, sul Sole 24 Ore, indovina dove abbiamo collocato queste 7 pagine, caro Alessandro? Beh, all'interno del Sole 24 Ore, questo sicuramente. Beh, certo, sì, ma in quale parte esattamente? Sole 24 Ore? Forse in Norme Tributi? Forse. Ma certamente. Poi oggi è una giornata decisiva, sì, perché parte la voluntary disclosure, sì, è una delle cose appunto che abbiamo avuto conferma proprio ieri durante Telefisco dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossello Orlandi, alla quale ho parlato molto male di te, quindi sappilo che come dire, sei stato segnalato, per dir così. Vabbè, oggi tra l'altro il tuo classico invece, affetto quotidiano, insomma, nei miei confronti. Ma sicuramente, insomma, d'altra parte tu mi accomuni da mesi a inquisiti, indagati, arrestati, insomma, almeno un, come dire, una piccola delazione ci stava. Volevo dirti, oggi parliamo ovviamente anche dello sciopero odierno dei bancari e di questo contratto, ci ritorniamo oramai, ohimè, da mesi, non per no, mi colpiva nostra, perché ma... diciamolo Mauro, se qualcuno oggi andrà in banca e la troverà chiusa o in sciopero, ecco, ve l'annunciamo. Ecco, sappia che deriva da questa lunghissima trattativa della quale per ora non si vedono spiragli. E poi ti volevo dire, parliamo anche oggi del voto maggiorato. Ieri non eri pronto, allora ne riparliamo, una modalità nuova di voto per le quotate, allora leggi nelle pagine di Finanza e Mercati, così ti puoi aggiornare e non mi mandi poi i tuoi genitori a dire no, ma il ragazzo si impegna, studia tanto, sì, però è distratto, eccetera eccetera, non facciamo queste cose, studia, patetiche, leggi patetiche, bene anche le pagine di Finanza, per favore, e che sono soprattutto perché poi sono importanti per i tuoi 2 eurini che hai lì. Scoprirai così che, e restiamo sempre in tema di banche, che la BCE ha detto alle banche piano con i dividendi, non distribuiamo a pioggia, quindi sappiti regolare, come si dice in questi casi. Oh Milan, sì, il numero uno, ciao. Ciao anche a te, caro ascoltatore. Oggi, per quel che riguarda i giornali, la cronaca nera prende varie pagine per la vicenda di Elena Ceste. Forse avete seguito, protagonista a suo malgrado anche di varie trasmissioni televisive. Elena Ceste, quando a 37 anni era scomparsa, madre di 4 figli, fu poi trovata qualche mese dopo morta in riva a un fiume. E la svolta c'è stata ieri, perché è stato arrestato il marito, Michele Buoninconti, 44 anni, accusato di aver ucciso in casa la moglie e poi di averla appunto seppellita vicino al fiume. E racconta per esempio il Corriere della Sera con Marco Bardesono a pagina 20, Elena Ceste uccisa in casa dal marito, in realtà i magistrati avevano già preparato le carte con l'ordine d'arresto poche settimane dopo il ritrovamento del cadavere. Si attendevano soltanto i risultati dell'autopsia, che hanno certificato una morte violenta della donna e quindi archiviata definitivamente l'ipotesi del suicidio. La responsabilità della morte è addossata al marito. La prova principe è rappresentata dalle tracce di terriccio del rio Mersa, luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere, trovate sui vestiti ripiegati della vittima, che il marito ha sempre sostenuto di avere scorto quasi per caso nei pressi della villetta. Tutti i giornali si concentrano su questa vicenda, anche Repubblica. Il marito odiava Elena, la uccise strangolandola nel letto e poi fece sparire il cadavere. Ovviamente ci sarà ora, immagino, il processo con la difesa dell'uomo che invece dice non è lui. Allora, si dice sempre il Papa stupisce, ogni giorno stupisce. Beh, ne ha fatta un'altra Papa Francesco. Racconta Repubblica col suo vaticanista Paolo Rodari la barberia per clochard voluta da Papa Francesco in piazza San Pietro. Dopo le docce, ecco un altro servizio per i poveri sotto il colonnato. Sarà aperto grazie ai volontari tutti i lunedì da metà febbraio. Ci saranno alcuni barbieri che a turno e che già prestavano servizio di volontariato all'Unitalsi rinunceranno al proprio giorno di riposo, si alterneranno per fare barba e capelli ai senza tetto, dice l'elemosiniere di Sua Santità. Vogliamo, come prima cosa, dare dignità alla persona. La persona che non ha la possibilità di lavarsi è una persona socialmente rifiutata. Tutti noi sappiamo che un clochard non può presentarsi in un posto pubblico, come in un bar o un ristorante, per chiedere di usufruire dei servizi igienici. Certo, fare la doccia e poter lavare la biancheria non basta, è necessario anche essere in ordine con capelli e barba, anche per prevenire malattie. Ed ecco allora che parte il servizio di barbiere gratuito per clochard voluto dal Papa. Cari amici di Napoli, invece, questa notizia di cronaca che ho trovato su Libero, Giordano Tedoldi, pagina 17. Cari amici di Napoli, per la Treccani, Napoli è un insulto ed è partita una petizione in città. Questa mi ha molto incuriosito, ho voluto leggerlo. Gli italiani, eccoli qui, hanno l'indignazione facile se gli si tocca il campanile, scrive Libero. E allora, l'ultima polemica viene dal presidente di Lega Ambiente Napoli 2000, Carmine Maturo, il quale è rimasto colpito dalla voce Napoli, con la N minuscola però, Napoli con la N minuscola, sul vocabolario online della Treccani. E qual è la definizione di Napoli con la N minuscola, dunque non la città? Spregiativo, designazione appellativo ingiurioso usato talvolta per designare i napoletani o più generalmente un meridionale immigrato nel nord Italia. E come da prassi segue l'esempio dello scrittore lombardo Giovanni Testori, che scrisse: gente come si deve, ladri, baresi, ruffiani, abruzzesi, Napoli e veneziani, dove l'accezione spregiativa è evidente. Allora il presidente di Legambiente Napoli dice: ha proposto una petizione al sito della Treccani in cui si chiede di sostituire l'attuale definizione offensiva, ingiuriosa per i napoletani, con una definizione più corretta e attribuendo alla mancanza di cultura la definizione attualmente proposta dalla famosa enciclopedia. E alle petizione contro Napoli utilizzato in minuscolo in senso spregiativo dal sito della Treccani. Che dobbiamo dire sempre per quel che riguarda la cronaca? Mi ha molto colpito quello che è successo in Francia. Questa è una storia abbastanza allucinante. In Francia, dove ci sono stati gli attentati, ovviamente c'è molta attenzione ora. E Stefano Montefiori racconta a pagina 17 del Corriere della Sera che è finito attenzionato anche un bambino di 8 anni, Ahmed. Che cosa ha fatto? È accusato di apologia di terrorismo a 8 anni. Sarebbe addirittura indagato, secondo gli avvocati della famiglia. Alunno di seconda elementare a Nizza si è rifiutato di osservare il minuto di silenzio e ha detto in classe: sono dalla parte dei terroristi. 8 anni. Ora, ovviamente l'avvocato dice che ha indagato soprattutto il padre per apologia di terrorismo, perché l'accusa, dicono alla scuola, è di aver ripetuto delle frasi che avrà sentito evidentemente in famiglia. Comunque il maestro lo porta dal direttore. Questi gli avrebbe ordinato per 3 volte davanti a tutti di dire «Je suis Charlie», come Charlie Hebdo, minacciandolo di non dargli la solita dose di insulina perché Ahmed è diabetico. Cioè, questa sarebbe anche una storia atroce nella storia già atroce. Poi, mentre Ahmed giocava con la sabbia nel cortile della ricreazione, il direttore gli avrebbe detto «Smettila di scavare, tanto non troverai il mitra che ti servirebbe per ucciderci tutti». questo dice l'avvocato di famiglia, vabbè, lì è partita un delirio, insomma, l'avvocato che accusa la scuola che risponde noi ci siamo comportati benissimo, forse ha detto delle frasi che ha sentito in famiglia, psicosi collettiva e storia allucinante, insomma, un ragazzino di 8 anni che risulta indagato, sarebbe indagato in Francia per questa frase, vabbè, capite poi quando la psicosi prende la ragione di tutti. Va bene, c'è ancora sul Fatto Quotidiano un'intera pagina dedicata a Fabrizio Corona, con interviste a Oliviero Toscani che dice ma no, è solo un pirla, l'ha capito anche lui, aiutatelo, e a Selvaggia Lucarelli che dice no, ha sempre solo fatto il furbo e quindi non merita sconti di pena. Nessuno sconto, una pagina del Fatto Quotidiano dedicata a Fabrizio Corona. Va bene, ma non è questa la carta costa, non è questa, perché ricordate che a mio insindacabile giudizio, e a mio insindacabile giudizio, eleggo vincitore di oggi della carta costa Alberto Mattioli della Stampa. Adesso abbiamo iniziato questi articoli, Sergio Mattarella, che è uno sempre molto serio, che non ride mai, ma La Stampa sono andati a intervistare il signor Gino che negli anni 50 era il compagno di scuola di Mattarella, e dice, titolo mezza pagina, ricordo bene Sergio, qualche risata se la faceva. 24 mattino. Di proporre una persona la cui esperienza personale, la cui solidità istituzionale sia nelle condizioni di garantire all'Italia del 2015-2022 sette anni di autorevole guida al Colle. E per questi motivi la proposta che vogliamo formularvi è quella che riguarda Sergio Mattarella. Insomma, questa è la linea di Renzi, Sergio Mattarella. Ieri, per la verità, la prima votazione non è andata proprio così. Bianca, Arnaldo Forlani, Vittorio Feltri, S. Craxi, Bianca, Magalli, Greggio, Ferilli Sabrina. Vabbè, c'è Craxi. Anche questo, alle prime votazioni. Bianca. Soprattutto tante schede bianche. Però, cari ascoltatori, se Sergio Mattarella diventasse il 12° Presidente della Repubblica, presumibilmente domani, è innegabile che Matteo Renzi avrà fatto dal suo punto di vista un capolavoro politico, cioè prendendosi tutto il piatto, come se fosse una partita a poker, no? Cioè, grazie al patto del Nazareno ha incassato i voti di Berlusconi per far passare la legge elettorale anche al Senato, che era lo scoglio più duro soprattutto per l'opposizione interna del PD, e ora ha la legge elettorale quasi in mano, dunque può agitare lo spauracchio delle elezioni anticipate. E allora che ti fa Renzi a quel punto? Dopo aver preso i voti da Berlusconi per la legge elettorale, dice: caro Berlusconi, e adesso ti becchi il mio candidato Sergio Mattarella, ma io non lo voglio, e lo becchi lo stesso perché io lo voto con quelli del PD. Insomma, Renzi avrebbe ora tre maggioranze, una al governo con i centristi, con Alfano, una per fare il Quirinale, per eleggere il Quirinale del Presidente con il suo partito, con la sinistra, e una per le riforme, il patto del Nazareno con Berlusconi. Beh, insomma, o una roba straordinaria o forse rischiosa. Può reggere una cosa del genere politicamente? Lo voglio intanto chiedere a Piero Stellino, che è passato da qualche giorno al Giornale, editorialista. Buongiorno Stellino. Buongiorno, buongiorno. Può reggere una bizzarria politica, da una politica da tre forni così composta? Beh, dipende molto dagli iscritti, dai protagonisti del Partito Democratico, perché i pericoli a Renzi possono venire proprio soltanto dal Partito Democratico. Ma può, voglio dire, adesso continuare a fare le riforme tra qualche giorno? Pare che dica, ma Berlusconi lasciamogli sbollire la rabbia, tra qualche giorno ripartiamo a parlare di riforme con Silvio Berlusconi e il patto del Nazareno. È mai possibile una cosa del genere? Per dire, l'errore è stato quello di pretendere di mettere dentro ad una cornice chiamata patto del Nazareno il quadro che si stava dipingendo. Sarebbe stato meglio trattare di volta in volta i singoli problemi senza pretendere di metterli dentro ad una cornice. Adesso il risultato è che ad ogni pennellata sbagliata rischia di saltare la cornice e quindi di non fare nulla. cioè, la politica è fatta di rapporti di forza, quindi di volta in volta ci si deve regolare sulla base di rapporti di forza. E qui pare che il rapporto di forza veda però un Renzi che decide più o meno tutto. Cioè, è d'accordo che Renzi si sta prendendo un po' tutto il piatto come se fosse una partita a poker? Il Quirinale, la legge elettorale, il governo? Cioè... Sì, in realtà lo spettacolo che ieri ha dato la politica italiana è stato uno spettacolo abbastanza miserevole, insomma, il centrodestra che si fida di Renzi e Renzi che viene meno ai patti. Cioè, che cosa ne possono pensare gli stranieri che devono fare degli accordi con l'Italia? Che c'è un Presidente del Consiglio che tradisce i patti di volta in volta secondo le circostanze e l'opposizione che non sa stare al gioco, insomma. Cioè, quando Renzi ha presentato Mattarella al suo partito, ha detto: Mattarella è un uomo che difende la Costituzione vigente e che nello stesso tempo è consapevole della necessità di cambiarla. Ora, uno che dica una cosa di questo genere, presentando il futuro Presidente della Repubblica, dice praticamente che è un uomo che tiene il piede in due scarpe, che non ha senso. Ed è tipicamente della politica italiana. Forse non ha molto senso visto appunto da quell'osservatore estero, ma è abbastanza senso forse vista con la logica della politica italiana. Insieme a Piero Stellino saluto Chiara Geloni. Buongiorno e ben trovata, Chiara. Come stai? Tutto bene? Bene. Allora, Chiara Geloni è una di quelle che a Renzi non ha mai risparmiato anche le critiche all'interno del Partito Democratico, si dice bersaniana doc. Può reggere, la stessa domanda, può reggere un Renzi che fa gli accordi a volte con Berlusconi, ora sul Quirinale ricompattando il PD e poi intanto governa con Alfano? Ma insomma, intanto vediamo come va con Berlusconi, perché la questione Quirinale non è ancora finita, intanto perché non è ancora stato eletto il Presidente, è la cosa più importante, ma anche perché Berlusconi insomma, non ha ancora deciso fino in fondo quale atteggiamento tenere verso la candidatura di Mattarella. Ieri si parlava della possibilità che lui dicesse voto scheda bianca in segno di rispetto per Mattarella, quindi lasciando aperto, insomma, non ha ancora deciso di far scoppiare la guerra Berlusconi. Beh, però i giornali raccontano, certamente contento, certo, i giornali raccontano di tradimento, traditore, Brunetta che dice Renzi è lo diciamo scorpione. Che si è sentito tradito, potremmo dire che Renzi gli ha detto di stare sereno, no? Stavolta l'ha detto a lui. Però io credo che quello che dovremmo chiederci prima di tutto è se Renzi avrebbe potuto reggere partendo per l'appuntamento più importante che c'è nella Costituzione, cioè l'elezione del Presidente della Repubblica. Se fosse partito da un accordo con Berlusconi anziché dall'unità del suo partito, quanto avrebbe potuto reggere un segretario di partito? Io credo che veramente questo avrebbe destabilizzato definitivamente il PD, e credo che Renzi giustamente abbia fatto invece la cosa più logica, cioè abbia deciso soprattutto il nome che aveva più possibilità di vincere nel PD e di essere eletto tenendo insieme il suo partito. Ho capito, però come dire, con la legge elettorale una settimana fa i più grandi oppositori erano nel suo stesso partito, i Gotor, i Bersani, questo, e allora ha preso i voti ha detto ma c'è il patto del Nazareno, è qui la bizzarria politica. Questi eventi della settimana scorsa, adesso poi avremo tempo di analizzarli dopo, quando sarà finita questa vicenda, ma potrebbero anche aver contribuito a convincere Renzi che la corda nel partito si era troppo tesa, perché lui praticamente rischiava di mettersi totalmente nelle mani di Forza Italia. Se lui avesse continuato con questo atteggiamento verso la minoranza del suo partito, rischiava di rompere la corda. Rischiava di aver bisogno dei voti di Forza Italia non solo per le riforme ma per governare. Sì, qui stiamo un po' vendendo forse la pelle dell'orso prima di averlo ucciso, come si suol dire. No, infatti, e chiederei anche a Ostellino, ma davvero Sergio Mattarella domani sarà il 12° Presidente della Repubblica? Perché nello spettacolo miserevole che lei ha definito di ieri forse non abbiamo ancora visto tutto. Magari ce ne sarà un altro domani. Ma io me l'auguro per rispetto, non fosse altro a Mattarella. Cioè, qualche giornalista ha detto che Renzi aveva scelto Mattarella perché è sicuro che non gli farebbe ombra. Sì. Ora, chiunque abbia osservato come si è comportato Renzi negli ultimi tempi sa che lui avrebbe ammazzato o ammazzerebbe sua madre se sapesse che sua madre gli fa ombra. Renzi è un ragazzotto spregiudicato, molto cinico e molto furbo. Se fosse anche intelligente avremmo già il Duce, ma non è sufficientemente intelligente per avere il Duce. E quindi non capisco la ragione per la quale lo si debba dipingere come un uomo che, pur di non avere ombra da nessuno, si sceglie l'uomo più mediocre che trova sul tappeto. Ma Mattarella non è un uomo mediocre. Mattarella è un uomo che della Prima Repubblica. Però è uno di basso profilo, uno che non tende ad apparire, uno che certamente non lo mette in ombra, per usare quell'espressione, apparendo o diventando un protagonista. Questo non è anche la funzione del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica non è un monarca costituzionale, è un signore che sulla base della nostra Costituzione assolve a certi compiti e non a certi altri, insomma. Durissimo il giudizio che ha dato di Renzi, Ostellino, come mai così? No, io devo dire la verità che Renzi non mi piace perché... Beh, si è capito dal giudizio. È palesemente un ambiziosetto senza cultura politica, cioè che va avanti soltanto perché è molto furbo. A me non piacciono gli uomini che fanno i furbi o che sono troppo furbi, dovrebbero semplicemente attenersi alla funzione che deve avere l'uomo politico. Chiara Geloni, è molto duro il giudizio che dà Ostellino, non sono le critiche che tu hai mosso a Renzi, però quello della furbizia o della scaltrezza politica, certo sì. Indubbiamente, ma io credo che sia anche intelligente. Credo che si sia mosso con grande intelligenza politica in questa fase, in questo frangente. Credo che Renzi sia un vero politico, è la prima volta in Italia che c'è un nuovo politico che si affaccia sulla scena e che però è un vero politico, è la prima volta dopo molti anni, perché tutti i politici nuovi pretendevano di essere espressi dalla società civile, invece Renzi è proprio un politico e si vede in questi momenti che sa, appunto, anche con una certa spregiudicatezza, indubbiamente ottenere ciò raggiungere l'obiettivo, ciò che si prefigge. Ti chiedo questo in chiusura, Chiara, secondo te ci sono i possibili franchi tiratori nel PD? Insomma, la storia dei 101 non è una storia di 20 anni fa, ma è una storia di 2 anni fa. Domani? La domanda è: tutti nel PD si allineeranno e voteranno Mattarella? Io penso che le condizioni politiche in cui si svolge questo voto siano molto diverse da quelle di 2 anni fa, perché c'è un quadro politico stabilizzato e mentre 2 anni fa le elezioni del Presidente della Repubblica furono utilizzate da chi temeva le elezioni per favorire la nascita di un governo di larghe intese, cioè il no a Prodi fu anche questo, fu un no a Bersani che si opponeva alle larghe intese. Mentre quest'anno, come questa volta, il quadro politico è molto più stabile e credo che il PD sia nelle condizioni, anche per come si è mosso Renzi in queste ore, di arrivare con molta più serenità e unità all'appuntamento del voto. Poi se vuoi sapere da me se ci sarà... No, vabbè, nessuno ha la palla di cristallo. Non sono Amelia. Lo scopriremo domani. Io intanto vi ringrazio, Chiara Geloni e Piero Ostellino, editorialista del Giornale, per essere stati con noi. Vabbè, l'abbiamo mandata anche alle 6.30. Noi, sapete, abbiamo una segreteria telefonica potete lasciare i vostri messaggi allo 02 46 52 4492. E ricordo, questa mattina quando ho sentito di Mattarella, abbiamo ricordato un straordinario messaggio, forse uno dei primi, che ci mandò una signora, credo emiliana almeno dall'accento, e che si riferiva ad altri tipi di Mattarelli, ma così la vogliamo riproporre perché magari ci aveva visto con largo anticipo questa signora 3 anni fa. Io non ho i forconi, ma ho 3 Mattarelli. Se qualcuno ne avesse bisogno, 2 li metto a disposizione. 1 me lo tengo. Se organizzate, chiamatemi. 24 mattino. Allora, sono le 8:37 minuti. Spesso si parla dello sfascio della giustizia in Italia. Mi ha molto, molto colpito un'intervista che il presidente del tribunale più grande d'Europa, che è il Tribunale di Roma, ha rilasciato al Fatto Quotidiano. un'intervista nella quale si racconta con esempi pratici che cosa vuol dire una giustizia, una macchina della giustizia che non funziona. Il presidente del Tribunale di Roma è Mario Bresciano, che è ai nostri microfoni. Lo saluto, buongiorno presidente. Buongiorno, benvenuto. Mi ha molto colpito questa intervista nella quale lei dice chiaramente che il primo problema è quello del personale, la mancanza di personale. Intanto però ho letto che non ci sono un po' troppi dipendenti che godono della legge 104, cioè statisticamente questo problema ve lo siete posti, presidente? Sì, sicuramente c'è, perché noi abbiamo indubbiamente una scopertura del 30,3% di personale e sì. Ci sono 192 persone che usufruiscono di permessi previsti dalla legge 104-92, consideri oramai gli anziani sono molti, i genitori anziani hanno bisogno di assistenza. Sicuramente. Poi ci sono 85 che godono di part time, 36 in aspettativa per familiari con handicap grave, quindi la scopertura effettiva da noi supera abbondantemente il 40%. E se parliamo delle qualifiche più elevate, i tassi di scopertura arrivano al 53%. Addirittura. Allora, sì. Però c'è una discussione in atto sulla questione degli esuberi delle province, l'avrà letta, sì. Avrà sentita anche lei. Ci sono 20.000 dipendenti in esubero delle province, si possono riqualificare e metterli in mobilità nei tribunali? Lei sarebbe disposto, li accetterebbe con gioia? Noi accettiamo chiunque, anche se onestamente i problemi non è che non ci siano, perché ci sono anche resistenze interne allo stesso personale, le dico perché. L'unica amministrazione che non ha mai avuto riqualificazione del personale amministrativo è quella della giustizia, mentre agli interni l'hanno fatta, in altre amministrazioni l'hanno fatta, da noi no. Allora il timore del personale è che coloro che vengono da fuori con alte qualifiche, pur non avendo competenze e dovendo essere addestrati, sì. e guardi, quella è la funzione del cancelliere, è una funzione altamente specialistica. Quindi non si può improvvisare, lei dice ci vorrebbero una formazione troppo lunga. Esatto. Ecco, la questione dei cancellieri, lei guardi, ha fatto degli esempi che vorrei lei facesse anche ai nostri ascoltatori, io li ho letti sul Fatto Quotidiano, che sono incredibili per capire quanto l'assenza di un cancelliere o di alcuni cancellieri può poi riverberarsi su facciamo l'esempio per esempio sul cittadino al quale viene pignorata la casa. Questo ce lo rifaccia perché è incredibile. E il problema è questo, oggi col telematico, il telematico sì da una parte ha portato dei benefici, ma dall'altra parte porta anche notevoli danni, perché forse hanno pensato che il telematico sostituisse la figura del cancelliere, il che non è. Allora quando arriva un'istanza per via telematica in cancelleria in cui si chiede di sospendere la vendita di un bene perché sono stati raccolti soldi per pagare il debito, sì. E che cosa succede? Il cancelliere non è in grado di ricevere la massa di documenti, sì. Di istanze e mandarle subito al giudice, e il giudice nel frattempo, proprio perché è solerte, vende la casa. Cioè, lei ci sta dicendo che magari coinvolta è dello stesso giudice del cancelliere. No, ma è chiaro, cioè lei mi sta dicendo che uno magari a un cittadino pignorano la casa, però nel frattempo paga, ma sono magari in tanti a pagare contemporaneamente. I cancellieri non riescono a smaltire queste richieste velocemente e magari uno ha pagato, ma nel frattempo gli hanno venduto la casa. Cioè, ho capito, perché la macchina si è inceppata da qualche parte. Ma sì, ci sono casi? Cioè, è successo veramente? I fatti sono successi, quelli che racconto sono tutti fatti evidenti, fatti concreti, ma noi non abbiamo soltanto carenze di casa, noi abbiamo carenze gigantesche in vari settori. Io ho dovuto chiudere per inagibilità la sala più grande del civile perché è stata dichiarata inagibile per vari motivi, tra cui anche pericolo di crollo, sì. Di una passerella metallica oramai arrugginita. Ma abbiamo letto anche abbiamo avuto i casi di legionella. Abbiamo celebrato un'udienza in corte d'assise con i secchi appesi al soffitto per raccogliere l'acqua che si infiltrava. Questo durante un processo anche diciamo di una certa rilevanza. Sì. Al civile altro allagamento, e al penale due volte allagate le aule perché sono rotte le tubazioni. Guardi, lavoriamo. Se vede poi le condizioni dei bagni, gli impianti di condizionamento che non funzionano, gli impianti di fonoregistrazione che non funzionano, che qui la mattina al penale vediamo processioni di avvocati, giudici, testimoni, sì, imputati alla ricerca di un'aula in cui funzioni o l'impianto di riscaldamento o l'impianto di fonoregistrazione. Senta, però le chiedo questo, presidente Bresciano, lei quando sente la polemica sui magistrati che non lavorano troppo, fanno troppe ferie, come replica? Cioè, ma cosa la fa arrabbiare? Io dico soltanto, no, sì, ma io parlo sempre per numeri, perché poi sono quelli che rendono l'idea. La media dei giudici di Roma, consideriamo che poi qui abbiamo anche una carenza dei giudici del 23%, comunque con nonostante vi sia questa carenza, al civile hanno definito fra il 30 giugno 2013 e il 30 giugno 2014, perché le statistiche vengono fatte da giugno a giugno, su 202.521 processi iscritti ne sono stati esauriti 200.426. Significa una media di 5 procedimenti e mezzo al giorno per 365 giorni, cioè ivi comprese le festività e le ferie. In penale poi si esauriscono 20.000 processi soltanto in sede dibattimentale. Qual è il problema? Ci sono troppe cause di entrata, evidentemente. Troppe cause di entrata e pochi giudici, perché vi è una scopertura fisiologica che si in tutti i tribunali, non è solo a Roma, sì, che quando va bene è del 5-6%, in alcuni tribunali si arriva pure al 20%. Però a me una cosa che ha colpito è che lei dice: io ho scritto varie lettere al Ministero, non mi hanno mai risposto, poi ho scritto al Presidente Napolitano, invece le ha risposto, diciamo dicendo ho sollecitato il Ministero, quindi insomma il solito giro, per cui poi, però la cosa che più mi ha colpito dell'intervista è questa, quando lei a un certo punto dice: io credo che ci sia la volontà da parte dei governi in generale, di lasciare abbandonata a se stessa la giustizia, perché c'è più possibilità di essere colpiti da una giustizia che funziona. Beh, questa cosa è gravissima che lei dice. Lo so, però guardi, è un mio convincimento personale, perché da troppi anni vedo o disinteresse oppure a volte riforme che hanno aggravato le situazioni, il che mi fa pensare che effettivamente allora non è solo a volte scarsa conoscenza del tipo di lavoro che svolgiamo, l'altra parte invece penso che vi sia proprio un interesse a che non funzioni la giustizia. E io lo vedo anche dal raffronto, parlando con le delegazioni di magistrati stranieri, ne ho ricevute quest'anno tantissime, brasiliani, giapponesi, vietnamiti, a parte quelli europei. Tutti quanti si meravigliano delle condizioni che non sono indecorose, ma io direi indecenti, in cui operano giudici e personale, e ovviamente anche avvocati e utenti della giustizia. Se fa un giro qui per vedere i bagni o gli ascensori che non funzionano, si rende conto che è una situazione di sfascio. Sì. Questo a livello logistico. Poi a livello di produttività, ripeto, più di 5 provvedimenti e mezzo al giorno per 365 non si può giorni fare. No, però la cosa che colpisce è che lei dice: le riforme che fanno i governi, cioè, sono riforme per non far funzionare la giustizia, cioè, ma alcune anche quando sono state fatte, se per l'ultima riforma del processo civile, in effetti alcune cose buone ce l'ha, non è che sia tutta negativa, per altre però comunque incidono soltanto sulla deflazione dei processi, cioè sul numero di iscrizioni di nuove cause, ma non incidono sulla durata dei processi che rimangono in carico ai giudici. Perché alcuni tribunali però funzionano? Per esempio un ascoltatore, Davide, ci scrive un sms e dice: perché a Torino invece funzionano le cose? Funzionano, io ricordo anch'io di aver letto alcuni articoli, viene citato sempre. Il problema sono i numeri, perché guardi, a Roma i giudici dovrebbero essere 379 e ne sono appunto già 20 di meno. però rispetto alla massa di iscrizioni, noi dovremmo essere molti di più, ce ne verrebbero almeno 30-40 di più. Per il numero di processi. E dovremmo avere anche le aule però per poter fare, e gli uffici per poter fare, altrimenti una collega, l'ho detto anche questo, una collega del civile ha dovuto studiare un processo urgente in un bagno perché non aveva la stanza. Non aveva la stanza. Insomma, però sa, a me le cose che più colpiscono, e poi se succede che una casa viene pignorata nonostante il cittadino sia riuscito a pagare in via telematica, vi ha avvisato ma non c'è il cancelliere che riesce ad avvisare il giudice, oppure un altro caso, persone con condanne passate in giudicato però magari manca il visto che il cancelliere emette, e quindi la persona risulta incensurata. Ma, ma ancora più grave il fatto che gli appelli non vadano a lavoro, no, cioè, ci sono delle sentenze che hanno già giudicato dei reati, cioè, poi avviene l'impugnazione, gli altri dovrebbero essere trasmessi alla corte di appello. Ovviamente se il personale è impegnato in udienza, non avendo il dono dell'ubiquità, non può provvedere all'attività che noi diciamo post dibattimentale. E quindi le sentenze, i reati si prescrivono nelle nostre cancellerie dopo aver impegnato tempo e fatica. Certo, tempo, denaro, avvocati, magistrati, sì, e questo è. Presidente, guardi, io la richiamerò perché vorrò magari fare un dibattito più approfondito a capire se questa è la denuncia, se ci sono, vabbè, a parte la questione più personale, se ci sono anche delle proposte. La richiameremo, approfondiremo insomma la questione. Intanto la ringrazio. Volentieri. La ringrazio molto. Mario Bresciano è presidente del Tribunale di Roma, lo voglio ricordare, il tribunale più grande d'Europa, e quindi ci ha raccontato insomma le condizioni, non solo condizioni fatiscenti dell'edificio, ma anche le condizioni in cui si lavora, o meglio non si riesce a lavorare, con casi estremi. A me quello che più colpisce davvero è il cittadino che riesce a pagare per rischio pignoramento della casa, avvisa per via telematica, ma non c'è un computer, ma non c'è uno dall'altra parte del computer che legge questa cosa, la trasmette al giudice, e quindi si vede la casa venduta nonostante lui abbia pagato tutto. Mi sembra un'assurdità da paese, da quinto mondo. 24 mattino. Allora, beh, tanti messaggi anche sulla testimonianza del presidente del Tribunale di Roma. C'è chi dice ancora le ferie, i magistrati lavorano poco, insomma, anche luoghi comuni, alcuni invece che fanno le critiche legittime, altri a dire veramente incredibile e deprimente. Vabbè, vorrei sentire Gianni da Piacenza, che però credo ci chiami sul tema politico. No, Gianni, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Sì, chiamo sul tema politico, mi riferivo in particolare a quanto sentivo riguardo le tra virgolette strategie di Renzi e quella che sembra risultare dalle discussioni come una sorta di ingenuità dei suoi, diciamo, non contrapposti, ma dei suoi vari riferimenti, le famose tre maggioranze. A me sembra strano che abbiamo questo Presidente del Consiglio, per carità, tanto di capello, intelligente, così super furbo, contrapposto a questi tre, diciamo, ingenuotti. E poi l'ultima cosa, velocissima. Cioè, che cosa? Nel senso, non è così secondo lei? Non è così. Non è questione furbo ingenuotti, è questione che quando uno ha i voti, è legittimato da un. È vero che non li ha ottenuti lui come Presidente del Consiglio, ma ha ottenuto il 40% certo, alle europee. Cioè, si sente forte dei voti, no? Si sente forte, esatto, di poter fare ciò che vuole. Cioè, se no si va a votare perché da sondaggi pare che è il favorito nel caso di voto, e quindi si sente potente in questo momento. Esatto, quindi non vedo tutto questo grande furbacchione che mette nel sacco degli sprovveduti, come a volte mi sembra. No, è abile politicamente, perché certamente se governa con Alfano, fa le riforme con Berlusconi e elegge il presidente del Quirinale con Bersani, insomma, se non altro è abile a riuscire a trovare le alleanze giuste quando gli conviene per ottenere quello che vuole, ma è politica. Gianni, la ringrazio, vorrei andare da Rimini, da Federica. Buongiorno Federica. Buongiorno Milan. Io ho chiamato invece perché ho due episodi che, se non fossero drammatici, sarebbero kafkiani con la giustizia. Sì. Uno è il più recente, perché ho una sentenza di separazione in atto. Sì. Poi, fra l'altro, dai problemi di maltrattamenti anche con i minori. Il giudice in prima istanza aveva previsto un percorso con i servizi sociali, 6 mesi di lavoro, psicologa, tutto quanto. Questa relazione, che è arrivata comunque per tempo una settimana prima di quando era stata richiesta, qualcuno, il cancelliere, qualcuno, non so chi, si è dimenticata di passare al giudice, quindi non è arrivata l'udienza. È questo, si è dimenticata, cioè lei sa, si è dimenticata oppure è la carenza di personale, è quella, magari è la situazione che ci raccontava simile a quella del Tribunale di Roma, cioè non c'era il cancelliere in grado di... però certo, la posso capire, questo cosa ha comportato, Federica? Che è tutto rimandato a luglio, io non so come devo comportarmi, le visite, tutto qua. Cioè, ci sono anche problemi abbastanza delicati, per cui... No, ma ci mancherebbe, la capisco, ma certamente, perché poi le prime vittime di una giustizia che non funziona sono i cittadini che si rivolgono ai tribunali perché per ottenere delle cose, delle questioni di chiarezza, e poi succede questo. Guardi Federica, si fermi qui, la seconda ce la racconterà quando torneremo su questa vicenda della mala giustizia. Intanto la ringrazio e vorrei andare al momento conclusivo. Ciao Italia! Siete pronti? Il momento in cui invitiamo in onda ascoltatori che ci sentono e ci seguono con passione dall'estero. Scriveteci a 24 mattino e radio24.it. Oggi vogliamo andare da Rachele, che saluto. Rachele, buongiorno. Buongiorno Alessandro, ciao. Dove ti trovi, Rachele? Ma io in linea d'aria in realtà non mi trovo molto lontano perché sono in Baviera e sono a Monaco. A Monaco di Baviera? Oh. Sì, esattamente. Beh, vabbè, insomma, in Germania, dalla Merkel. Sì, esatto. Come si sta comportando la Merkel? Ci vede sempre così con lo sguardo, Ma guarda, in realtà la Baviera è una realtà ancora più particolare all'interno della Germania. Qui le persone dicono addirittura che Monaco è l'ultima città d'Italia. È vero, lo dicono per andare in vacanza, perché poi dubito che uno di loro si trasferirebbe volentieri nel nostro paese. Per comunque cui... è comunque già Germania. Insomma, che ci fai lì, Rachele? Allora, io mi sono trasferita ad aprile di 2 anni fa, anzi, quindi sono quasi 2 anni che sono qui. Io sono avvocato. Mm-hmm. Hai sentito per caso prima il presidente del Tribunale di Roma? Ma cavoli, no. Proprio questa mattina no, invece non l'ho sentito. Cioè, ci ha raccontato che è un disastro la giustizia italiana. Proprio ci raccontava cancellieri che mancano, cause che si perdono. Come funziona guarda, da lì, invece? Sì, su questo sono abbastanza informata perché poi il mio compagno fa l'avvocato in Italia e quindi non è una novità questa. In Germania invece funziona mediamente la giustizia? In Germania funziona, è più snella. La Germania è un paese abbastanza burocratico, perché anche qui non scherzano, ma comunque la risposta è più celere, almeno per quello che ho potuto vedere io. Magari c'è burocrazia, ma uno si mette al computer e track, fa una pratica, esatto. In 10 minuti. Hanno il personale, hanno i mezzi, per cui è... il sistema è più snello, cioè si aspetta anche qui, ma non con i tempi nostri. Allora, ho 20 secondi, dici la cosa che ti manca di più dell'Italia, cara Rachele. Orca, la cosa che mi manca di più dell'Italia, sinceramente, è l'imprevisto. L'imprevisto, qui è tutto preciso, è tutto teutonico, è tutto... Esatto, è tutto molto organizzato sia nella vita lavorativa che in quella personale, cioè non si arriva tardi agli appuntamenti, neanche quelli tra amici, è tutto preciso, è tutto segnato. Rachele, ti ringraziamo, un abbraccio a Monaco, alla Germania e a lunedì. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le astriti da politica. 24 mattino. We'll be right back.